nostro è un martirio a fuoco lento. Ogni giorno noi dobbiamo bruciare i rifiuti. I rifiuti, qui intendo i rifiuti che abbruttiscono l'anima nostra, ingombrano l'anima nostra. Bisogna che abbiamo questo coraggio. E qui, in breve, tra parentesi, vi dico che nelle nostre preghiere di tutti i giorni, noi, prima di andare a letto, non saltiamo mai il cosiddetto esame di coscienza, bilancio della giornata. Oh, non lo facciamo lungo, lungo. Certi istituti ce l'hanno lungo anche di un quarto d'ora, I gesuiti a meno di un quarto d'ora, no? Noi, quando siamo bravi, facciamo 3 minuti, 3 minuti. Cosa vuol dire? Adesso, prima di andare a letto, faccio come fanno le brave massaie, che non lasciano lì il secchiaio da fare il giorno dopo. Non vanno a letto se non hanno fatto il secchiaio. Altri massai non vanno a letto se non hanno spazzato la cucina. Altri non vanno a letto finché non hanno messo a posto la vetrina per l'indomani sia pronta. Ecco, prima di aver messo a posto il loro studio, dove domani ricevono clienti, eccetera. Noi non ci rassegniamo andare a letto senza aver fatto il repulisti. Repulisti. Che vuol dire? Piglia in mano la scopa e pulisci la tua coscienza prima di addormentarti, affinché quella sua coscienza spazzata, secchiaio fatto, meriti il bacio di Dio. Addormentati nel bacio di Dio, che bello. Notte serena, notte tranquilla, quando ci si addormenta nel bacio del Signore. Ma pulisciti quella faccia che il Dio non si sporchi le labbra del tuo sudiciume. Esame di coscienza, repulisti della giornata. Butta al fuoco quello che nella giornata è sedimentato su di te, sulla tua coscienza, e l'ha resa brutta agli occhi di Dio, repellente agli occhi di Dio. Un bel atto di dolore, un bacio al crocifisso, un gesto di penitenza affinché il Signore trovi lo spazio dove darti il suo bacio. A Bologna c'è una santa simpatica, Santa Caterina da Bologna. È una bella chiesa. Se andate a visitare il suo corpo, ve lo dico prima, è incorrotto. Dopo tanti e tanti anni, incorrotto, si può baciare un piede, ma è dentro un cristallo, perché ci fu un devoto che una volta tentò di portarne via un dito. Il volto, la faccia, ha preso un colore bruno dopo la morte ed è rimasto evidente sulla guancia un segno bianco. E leggete nella vita, è detto che in una visione, in un'apparizione, Gesù le diede un bacio su quella guancia e la morte ha rispettato quel punto sul quale Gesù Cristo aveva impresso un bacio a Santa Caterina da Bologna. Voi vedete il volto bruno e che una macchia bianca. Domandate a chi vi fa la spiegazione, se non prendete in mano il libro. E dico, questo è il segno che ha lasciato Gesù Cristo in un bacio che ha dato a questa santa creatura in una visione, in un'estasi. Bene, fa impressione quel segno bianco. Facciamo in modo che Gesù Cristo alla sera ce lo dia il bacio. Non si sa mai, verrà certamente un'ultima sera, è segnata per tutti. Volendo darci il bacio del suo perdono, trovi il posto dove imprimerlo quel bacio con quelle labbra santissime che ci hanno redenti. Fate che la trovi pulita la vostra anima, perché voi avete gettato nel fuoco del pentimento tutti gli sbagli fatti nella giornata. Hai fatto un bilancio? Ti sono scappati due discorsi cattivi. Uno era una calunnia contro il prossimo. L'altro era un discorso brutto, schifoso, osceno. Tu, di questi due peccati, pentiti. Questi sono rifiuti da bruciare. Non volere che Gesù Cristo ti imprima il suo bacio, presentandogli queste guance, cioè la tua anima, la tua coscienza, così, abbrutita. Getta nel fuoco del pentimento questi tuoi peccati. Poi, quando avrai l'occasione, andrai anche a confessarti. Intanto pentiti. Un atto di pentimento è fuoco che incenerisce questi due sbagli che tu hai commesso. Un altro potrebbe dire: oh, quest'oggi, che giornata triste. Oggi ho fatto torto alla compagna della mia vita. Maledetta combinazione. Malaugurato incontro. Beh, ricordati di questo peccato. Umiliati. Getta nel fuoco questo malaugurato incidente. Pentiti. Pentiti affinché Gesù Cristo ti possa imprimere il bacio del suo perdono.